Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Uno degli scenari più suggestivi e forse anche la metafora più potente di quel macro processo di innovazione che chiamiamo Smart City è l'idea di città governata in tempo reale. Una città dove milioni di sensori monitorano costantemente flussi di persone, materia, di energia, qualità dell'aria e usano questi dati per prendere decisioni che la rendano dinamicamente più vivibile, più efficiente e soprattutto più pronta a reagire agli imprevisti, cioè, come si dice in gergo, più resiliente. Ebbene, aumentare la resilienza delle infrastrutture critiche delle città di fronte agli eventi naturali è proprio l'obiettivo del software messo a punto dall'Enea all'interno del progetto Roma, che sta per Resilience Enhancement of Metropolitan Areas, finanziato dal MIUR, si sta sperimentando oggi nella capitale, che vede protagonisti della sperimentazione, oltre alla stessa Enea, la Protezione Civile. Ne parliamo con Vittorio Rosato, che è responsabile del laboratorio di analisi e protezione delle infrastrutture critiche del centro Enea della Casaccia. Buonasera Rosato. Buonasera. Allora, senta, il vostro software è prima di tutto una specie di accentratore, no, di dati di ogni tipo. Ecco, cominciamo da qui. Quali sono quelli che avete già in pancia? Perché poi non c'è limite a quello che si potrebbe buttare dentro. Beh, diciamo, il sistema nel suo database ha raccolto una serie di informazioni che sono accessibili su moltissimi portali pubblici della pubblica amministrazione, ma che in questo momento sono sparsi in molti siti diversi. Che non sono stati messi in relazione fra loro, che invece è proprio quello che farete voi. Abbiamo dati di natura territoriale, del rischio idrogeologico, le frane, abbiamo i dati delle zone censuarie. Acquisiamo i dati meteorologici, i dati delle previsioni di nowcasting, quindi sono dati meteo a brevissimo previsioni meteo molto precise, periodo. Molto localizzate ma a brevissimo periodo, sì. Poi abbiamo dati di natura geofisica, quindi siamo costantemente in contatto con i siti dell'Istituto di Geofisica che dà dati sismologici, quindi. Sismologici. E naturalmente abbiamo anche dati sulla conformazione sociale delle aree. E poi soprattutto avete delle mappe delle infrastrutture che volete proteggere, no? I dati importanti sono quelli sulla la localizzazione delle infrastrutture critiche, che normalmente sono dati in possesso dei singoli operatori. Noi stiamo cercando, attraverso la compliance appunto degli accordi con questi singoli operatori, di avere a disposizione tutti i dati di tutti, diciamo, georeferenziate, ecco, delle loro infrastrutture, dei tracciati delle loro reti, in maniera tale da poter... Ecco, quando si dice infrastrutture critiche, per esempio, si intende le cabine di trasformazione elettrica principali, no? Esatto, parliamo delle linee elettriche della distribuzione, quindi della media tensione, le cabine degli operatori delle telecomunicazioni, i sistemi per il pompaggio dell'acqua, i serbatoi. Ecco, facciamo un esempio del tipo di cosa che sareste in grado di fare di fronte a un'emergenza imminente. Oddio, arriva la bomba d'acqua, fra 25 minuti lì si scarica la fine del mondo. Esatto. Cosa succede? Ecco, dai nostri dati quindi possiamo sapere esattamente quali sono le infrastrutture che sono localizzate all'interno di questo quartiere e, attraverso la loro vulnerabilità, capire quale di queste potrebbero essere effettivamente danneggiate da quella situazione. Mm. Facciamo un esempio anche qua. Ci sono, per esempio, alcuni operatori hanno delle cabine o dei dispositivi che sono all'interno al di sotto del terreno, quindi naturalmente questi sistemi sono più passibili, diciamo, di essere coinvolti di allagamento, e quindi naturalmente hanno un indice di vulnerabilità maggiore. Quindi noi segnaliamo questa possibilità e quindi gli operatori sono in grado di provvedere, per esempio, in tempo a mandare delle squadre in maniera tale che questi eventi non si verifichino. Ecco, poi un altro degli aspetti importanti che, grazie al fatto che voi appunto accentrate dati provenienti da realtà molto diverse, riuscite a vedere l'interdipendenza, no, delle varie infrastrutture tra di loro. Pubblici. Per esempio, ecco, tutti i ripetitori dei cellulari sono alimentati, poi hanno anche delle batterie di riserva, ma insomma, se salta una, salta anche l'altra. Qui cosa può succedere? Quindi ci sono dei riverberi non solamente sui servizi offerti ai cittadini, ma anche sui servizi che poi il gestore delle telecomunicazioni offre in termini di telecontrollo all'operatore elettrico, che quindi non potrà più telecontrollare e quindi operare da remoto una serie di azioni per risolvere il problema utilizzando appunto i servizi delle telecomunicazioni. Per capirci, lì c'è Acea, che è il principale operatore della rete elettrica, c'è Telecom, per esempio, che, come noto, fornisce servizi di telefonia mobile. Il problema, spiegato spieghiamolo bene, è che uno non conosce le cabine elettriche dell'altro, no? E Acea non sa dove Telecom ha i ripetitori, perché sono dati di solito sensibili che le aziende non sono felici di rendere totalmente pubblici. E qui viene anche il vostro ruolo, no? Il nostro ruolo è quello di creare una sorta di mappa di dipendenza che metta assieme tutti i dati di questi operatori e che fornisca loro delle informazioni di contesto molto più accurate di quelle che ciascuno di loro può avere separatamente. E la vostra, il vostro essere terzi è un punto di forza da questo punto di vista, no? È assolutamente un punto di forza. Senta, oltre a diciamo migliorare le capacità di reazione di fronte a un evento nefasto, imminente o appena accaduto, che cosa consente di fare questo software? Ma può anche simulare delle situazioni sintetiche, quindi può emulare degli eventi naturali sintetici, un terremoto, una bomba d'acqua, una frana, oppure addirittura creare dei danneggiamenti dovuti ad altre nature, immaginiamo ad attentati o altre, quindi anche in questo caso produrre degli scenari e vedere quali siano effettivamente i punti critici e le vulnerabilità del sistema. Grazie Vittorio Rosato. Grazie a voi. Bene, anche per oggi è tutto, ci sentiamo domani, stessa ora, buona serata.